1, 2, 3, prova, prova, prova. Raccontate, puoi scendere ad aprire la porta a Coulibaly, per favore? Arrivo. Luca, Luca. Ciao Mari. Che bada? Non mi tacci, che facendo? Che bada, dici il dedo. E lu... E beh, Giomari, mi senti? Sì, no, non te ne ho... L'ho dimenticata in macchina, la volevo provare. Come si dice, non l'ho provata ancora. Vabbè. Tanto va bene, vanno tutti bene con le antenne. Cazzo, ma l'hai messa in macchina? Vabbè, la macchina, non ve l'hai vista. Io me la giuro sulla macchina, devo fare la direzione, qua lascio per andare in macchina. Ma la scendo adesso, in mutande, Giovanni. Vabbè, cazzo la ciappi, cazzo la ciappi, la blu, mi già. Un rosmetto, al voglio o no? Giovanni, se quel rosmetto non dà problemi, lo provo, se non dà problemi lo prendo. Non mi hai detto niente, se no stamattina te l'ho fregato io. Mi risolvo dimenticato, ma adesso ho dimenticato. Eia, va a chiamarlo Giovanni. A Marino? Eia. Ma non fino alla sera, ma attento Marino. Marino! Oh, sei già una settimana che non lo sento. E ha detto hola. Forse che c'è il bacchino. Attento, c'è il bacchino. Non lo so. Ehi! Sotto l'albero la tappa in mano. Dritto, bella mantenere la tappa, c'è sta tappa. A che si mette sotto l'albero? E a che cosa? Per mantenere male, dritto. E allora? No, mantenere l'antenna, Giovanni. A fine... vai tra quel burro che c'è, travagliese, dice che... si sarà riposato e per negare che cosa? Beh. Ah, secondo me è dormito. L'ho trombeato facilmente, no? Ora tutti i giorni tu è restato magari oppure c'ha altre cose più importanti da fare e se no sarebbe entrato poi ne è sparito uno, non è più entrato, fatti suoi, sono fatti suoi, noi siamo qua, quando uno può entrare la porta è aperta. Ah beh certo, senza ombra di dubbio Giovanni. Senza ombra di dubbio, vabbè, si può entrare con te tutti da seminocchi. Io voglio mangiare in casa mia. Allora, io in casa mia. Io che andavo a persona, non ho posto niente. Non si vede il biglietto, né con me quelle cose. Voi si sa poi fare che cosa. Basta dirlo perché se non si dipaventa e siamo sempre così. E fa. Buzzicolato con uno con l'altro, invece bisogna discutere le cose. Sono d'accordo con te, Giovanni. Quando si discute la cosa, penso a disincare certa legge, penso che si riesca a avere un dunque e mettere a posto le cose, capito? Per cui sono qua. E così via. Ma infatti bisogna parlarne delle cose, che se non ne parli, come hai detto tu, Dio Marino, non risolvi, ecco. Esatto, così bisogna fare. Non è che uno se la deve prendere, bisogna parlare. Infatti si parla uno con la calma, con tranquillità, e si viene sempre a un dunque, questo, per cui penso che ci sia questa scassata, ragazzi. Certe volte facciamo, ecco. E certe volte anche quelle cazzate uno magari se la prende, invece bisogna prendere come viene. Non ci siamo domani, no, lui. Ma infatti quello che dico io, oggi siamo qua, domani non si sa. Sono così, è quello infatti, no. Qua, chi vuole entrare a porta aperta? Chi non vuole entrare, pazienza, fatti su e... E ti raccampare. Otto o lui? Beh, Giovanni, così, chi vuole entrare, nessuno mette né chiave né lucchetto. Via via. E chi sta stessa lì? Doveva fare, mettere a posto un imperiale della sua macchina. Stamattina eravamo assieme. E poi non lo so cosa sta facendo, Stamattina dovevamo scendere in campagna. Stava piovendo, invece la borga ha fatto bella giornata. E allora avremmo fatto male a Mazzano. Ah, te trucca, è bello! Sai chi c'è sopra la gabbicciuria con Bichese? Ah, te trucca, è bello! E oggi cosa hai combinato? Ma niente, Gio Marì. Mi hanno dato una TV da riparare, adesso devo comprare dei pezzi. Però glielo devo chiedere prima se la vuole riparare per quella cifra lì. E poi me la devono portare un'altra domani. Va bene. Vediamo un po' se ne vale la pena di ripararlo. Bisogna fare sempre lui. Bisogna essere sempre allerta. Gio Mario, io mi do quello di fa, non è che non mi do da fare. Luca! Marino! Gio Mario, prova a chiamarlo, ma non mi sente. Allora sente nemmeno a me. Aspetta. Aspetta, Marino! Marino, mi senti? Sento Marino! Marino, mi senti? Prova! Anch'io sono con Gomino e non mi senti a me se c'è. Attento Marino! Mi sa che non è attento, mio Marino. Ah? Ho detto, mi sa che non è attento. Stai facendo qualche lavoro stamattina, Gio Marì, in magazzino. Come? Ho detto, stai facendo qualche lavoro stamattina in magazzino. Ogni tanto scendo e ci appuglio sempre. Mamma te l'ho detto, anche se sono in casa mando ieri. Allora ogni tanto scendo, attacco il compressore, do una soffiata per la polvere, sempre così. Oppure mi faccio un giretto nel cortile e così. Ammazzare il tempo, capito? Il tempo bisogna ammazzarlo. Puoi stare sempre seduto in casa, capito? Bisogna uscire, girare, passeggiare, muoversi, capito? E per cui solo che ci ho messo la pelle, se adesso è sempre chiuso il magazzino, no? L'odore della pelle mi fa un po' mal di testa, lo sai. Ma l'hai detto il pelle, c'è quella puzza potente, è vero. Infatti, ogni tanto, dentro, fuori, perché se no mi fa mal di testa se rimango sempre dentro. E per cui, non mi faceva mai niente, invece dall'anno scorso mi sono accorto che poi ce ne sono parecchi, ho preso quasi 40 sacchi più ne ho presi e per cui c'è l'odore, capito? Ti hai fatto la scorta, Giovanni. Allora però starò andando sempre a prenderlo, capito? Invece c'ho la scorta per tutto l'anno, già mi basta 40 sacchi, capito? E per cui c'ho la scorta ho visto che c'era un'offerta lì a cavolo e sono andato a voce, ho fatto 3 piatti. Hai fatto bene, a quanto Gio Marì? 4,20 mi sembra che era, 4,20 o 4,25, una cosa del genere. Così che c'era l'offerta, avevamo dei buoni, per cui magari facevi la spesa, non so, di un tanto, non mi ricordo com'è la faccenda. E c'era lo sconto, capito? Per cui ci riferivano 5 sacchi. In 10 sacchi, 5 sacchi gratis. Buono là, praticamente non dico che ti fa tutto l'inverno, ma quasi. No, mi fa tutte le 40 sacchi, mi fa tutto l'inverno a me, perché io non consumo un sacco ogni 2 giorni, capito? Ne consumo un sacco ogni 2 giorni, perché la mattina io non la accendo mai, la accendo solo la sera, dalle 4 in poi fino alle 10 e mezza, 11, capito? E per cui per me va benissimo, io la mattina perché sto sempre in movimento e freddo non ce n'è, e allora qualche volta l'accenderò, magari anche la mattina, ma raramente però, capito? Ma no, usiamo, sei in movimento, invece la sera magari sei sempre fermo tocca, e c'è freddo, allora verso le 4 lo accendo fino alle 10 e mezzo, 11, capito? Ma invece qua, se c'è, qua vabbè, molto più grande della tua, è molto molto più grande. Qua, secondo, se c'è freddo accendiamo prima. Sì, vabbè, cazzo, per me è qua già, perché io c'ho anche incanalata anche in cucina, io ce l'ho sull'abito, sono incanalata alla cucina pure, perché quando sono in cucina entra il calore, entra, per cui solito noi la sera siamo sempre in cucina, per cui ci abbiamo sempre caldo, capito? E anche entra sulle altre camere, perché le camere sono tutte aperte e dall'adito il calore va dappertutto, capito? Beh, certo, certo. Ma qua è più fredda, Beh, secondo l'ovvemessa, magari, e secondo quanto è grande l'appartamento, chiaro che io, il mio non è un appartamento molto grande, sono 95 metri quadri, per cui il vostro magari è più grande, ecco, ci dà una caloria superiore alla mia, capito? Giovanni, molto più grande questa qua, ma molto più grande. Per scaldarla ci vuole di più. Io ho tre camere, cucina, bagno e l'altro. Non è che c'è. Ma c'ho due camere grandi io, ma la cameretta e la sala sono molto grandi. Sono 7x6, sono 7x6 tutte e due, e sono molto grandi, mentre invece questa cameretta è più piccola. E sono 4x3, capito? Questa cameretta che la vedi. Però già entra ugualmente. Capito? Poi eventualmente ho anche le pompe di calore, io capito? E per cui ne ho tre pompe di calore, per cui se dovessi avere più freddo ancora basta accenderne una e cazzo, allora poco del gasto. Ah, beh certo, quelle consumano a caldo, ma anche a freddo. E così via, io il freddo lo soffro, per cui ho sempre freddo, però già mi scaldo, perché... Ma noi la chiudiamo sempre a quell'ora, verso le 4, capito? Dalle 4, 10 e mezza, 11, boh, tutti i giorni. La metto a 2 o a 3 e lei cammina tranquillo che è un bombò, capito? Se no, Giovanni, se mi è freddo di sigaro con tua moglie, caldi di duretto e mi caldi di impare, noi come così con Marina. Il vostro appartamento è più grande, così è, quanti metri quadri sono? Allora, 88 metri senza terrazzo. Quanto? 88. 88, e allora è più piccolo del mio. Allora, questa qua c'ha una, aspetta, una, due, tre camere, soggiorno, cucina, doppio servizio, tre terrazzi. Allora sarà più di 80, più di 90 sarà a lui, ti stai sbagliando, Allora è 88 metri quadri senza i terrazzi. Penso che siano intorno a... Il contratto c'è scritto così, poi non l'ho mai detto. Sono 120 metri quadri allora in tutto. Non lo so. Quanti metri? Con i terrazzi saranno 120 metri quadri. Vabbè, non calcolare i terrazzi, io parlo delle camere, capito? Perché tanto il calore sul terrazzo cioè, no, non va, è sulle camere, capito? Io non lo sto contando il terrazzo che ho io, perché c'è il terrazzo, più c'è uno sabatino dove c'è la lavatrice, hai capito? Però il terrazzo io ce l'ho chiuso, c'ho due sportelloni scorrevoli, per cui, però, la chiudo la porta del terrazzo quando accendo la... Apriamo la porta solo quando dobbiamo uscire in terrazzo per qualche cosa, capito? Ma 84 metri, ma la stufa è esattamente di quelle grandi. Com'è quella di Graziano, così è. No, quella di Graziano è più grande, questa qua è 10,5. La mia è da 7. sta a 7, 7,50, non di più. Però scalda, eh. E beh, così sì, io la metto a 3. Ah, sai quanto scalda? E poi faccio quelle ore. Sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fino a 10 sono 7 ore che io la faccio accesa, per cui... Ah, lo sai quanto scalda? Beh, la tua oggi da quanto è? Da 10? Ah? La tua stufa da quanti kilowatt è? Da 7,50, non è grande la mia, capito? Di quelle piatte larghe, capito? Ah, lunghe, non larghe. Ma è per l'appartamento che ho, va bene, capito? Io a Puglia, più grande no. Va bene questa qua da 7,50, capito? Allora, quella di Marina è 11 kilowatt. Aspetta, le camere sono grandi quelle che ci avete, o piccole sono? Già sono grandette, la cameretta è grande. La cameretta lo stesso, sono grandi le camere comunque. O piccole di ferro c'è freddo, Aspetta. Meno male che mi sono fatto chiuso tutte le... Prima io avevo in tutte le camere. Le porte e finestre avevo prima, invece io adesso le ho tolte tutte le porte e finestre, ci ho fatto le finestre a mezzo muro, capito? Ci ho fatto le finestre nuove, i WC, c'è più caso, c'era freddo prima, e trova freddo dappertutto, gatta, mentre adesso invece si sta bene, perché più chiuso e aria non entra con più WC, capito? Sì, ma anche a casa mia c'è freddo, quindi io in camera mia non ne chiudo finestra, Non ne chiudo, mi copro bene, perché a me che tenere... La Marina sì, qua le chiude, e dormo lo stesso, però a casa non le chiudo, non la chiudo la finestra. Comunque quando c'è freddo bisogna comprirsi uno, io ripeto, in inverno, chiaro che esci fuori, ed entri, esci fuori, ed entri, magari colpi d'aria, eccetera, però uno si copre magari e per cui va più bene, capito? Però quando sei dentro casa c'è un caldo, si sta bene, vai, si sta veramente bene, e per cui tutte le porte aperte qua, così che il calore va dappertutto, ecco, e per cui non lamento. Se dovessi esserci più freddo ancora, Non è che l'aumento la soppa, accendo un'oretta il condizionatore, dopo un'oretta me la spengo, e si sta bene tutta la notte. Aiuta, diciamo, dai, ma ce l'hai anche in camera da letto il condizionatore? Ne ho tre, una in questa cameretta dove c'è adesso, una in camera da letto e una in cucina, ne ho tre, in sala non ce l'ho, in sala non ce l'ho così tanto, però già entra il calore, capito? La sala è molto grande, è 7x6, come la camera letto stesso, è 7x6, sono due camere molto grandi, invece questa è più piccola. La cucina non è molto grande, però già è incanalata e per cui il calore entra benissimo dalla stufa, capito? Certo. Eia, Giovanni, purtroppo bisogna fare così, altrimenti è freddo, sì. Ripeto, in camera mia, io non ho nessun riscaldamento, mi copro bene, non prendo, sì, poi la mattina non ti alzi, già c'è freddo. Diciamo, a secondo delle giornate, se c'è troppo freddo, la chiudo, quello sì, se no la lascio aperta. Oh, qua lui siamo all'ultimo piano, come entra in freddo entra in caldo, in estate, cazzo, qua noi quest'estate eravamo, ricavavamo la notte con condizionatore acceso, lui non si poteva stare senza il condizionatore, capito? Oppure le ventole, anche le ventole, però la maggior parte accendevo quando mi coricavo verso le 11 e mezzo, mi coricavo, accendevo il condizionatore anche tutta la notte, alle 5 lo spegnevo il condizionatore, per dire, e qua come entra il freddo entra il caldo, capito? E per cui l'inverno freddo passa, adesso poi non so se c'è l'ultimo piano, se ci avete atterrati oppure no. Io c'ho il terrazzo già là vicino, e per cui è freddo e in inverno. Lo so, purtroppo bisogna. Vabbè, ma comunque già sta facendo ancora a caldo domani, dai. No, chi scura ve l'ha stato già freddo. Dice che arriva un tempo brutto, freddo, ma non ci credo. Secondo me fa caldo ancora. Io ho sentito un ragazzo, cioè ho sentito, l'ho trovato lì dal barbiere, e mi ha detto che lui va ad Alghero e ci sta facendo ancora il bagno. Ci sta benissimo. Beato lui. Beato lui. Oh, sta facendo caldo, eh. Certo, se mi copro con il sole, ma adesso, di notte c'era molto caldo. Boccate così in pigiama, sembra un itto, saranutti, per dirti no, c'è caldo ancora, però quando comincia a fare freddo non penso che rimane sopra il letto bucciato così, non senza niente. Senta, allora bisogna mettere coperte su, allora ci scaldiamo. Olu, ti starò chiamando, dai, ci sento magari più tardi eventualmente, sino domani, ok Lu? Sì, adagio Mari. Già accendo il baracchino, ma se entra qualcuno dopo, se no a domani, dai. Ciao Giovanni. Ok, già entro dopo effettivamente, ciao.